Radio 24 Reportage. Viareggio, memorie e domande dopo la strage, di Raffaella Calandra. Si chiama via Burlamacchi, una delle strade che costeggia la ferrovia di Viareggio. Un vecchio semaforo bruciacchiato si è spento quel 29 giugno del 2009. Dall'altra parte del muro si vedono le case rimaste annerite, le case sventrate, si vede il segno di quella nuvola di gas e fiamme che portò via in un solo momento la vita di 32 persone. Si sente il rumore lento delle rotaie. Dopo quel giorno, dopo il 29 giugno del 2009, i treni quando entrano nella stazione di Viareggio rallentano. Oggi rallentano e passano accanto anche al nuovo muro, al muro che un anno fa è stato costruito accogliendo le richieste che tanti abitanti di Via Ponchielli avevano fatto. E dall'altra parte di quel muro sporgono ancora, quasi come la quinta di un teatro che è andato in fiamme, le case annerite, le finestre sventrate, i tetti senza più tegole, dal nero di quelle stanze rimandano alla luce del cielo. È come se fosse passato un terremoto, solo che qui sono anche nere e quelle fiamme ricordano quello che successe un anno fa. Io porto dietro sempre i pozzi di gas, fuoco, la sera sogno più che altro fuoco, esplosioni, non posso guardare neanche i film, quando vedo il fuoco anche una macchina che prende fuoco, cioè mi viene un caldo dentro. Ibi Ayad ha uno sguardo profondo e un sorriso luccicante, come la fede che da pochi mesi porta al dito. 21 anni, origini marocchine, ma ormai italiana, oltre che nell'animo anche nel passaporto, è l'unica della sua famiglia sopravvissuta al disastro di un anno fa. Il 29 giugno del 2009, le fiamme e le esplosioni scaturite dal treno merci Trecate e Gricignano, carico di GPL, deragliato a Viareggio, investirono in pieno la sua casa e l'intera via Ponchielli. Una stradina tranquilla, trasformata prima in un'enorme torcia, poi in un tunnel nero di macerie arse e facciate bruciate. Da quella notte Ibi è tormentata dalla puzza di gas e dalla consapevolezza di aver corso solo più veloce degli altri. Un attimo ha separato il suo destino da quello della mamma, del padre e dei suoi due fratelli. Hamza, il più grande, tornò indietro in cerca della sorellina. Si pensava che era il gas aperto, infatti mio padre è andato a chiudere quella generale e ha aperto la finestra della cucina, entra questo gas fortemente. Infatti io l'ho detto, babbo, si è aumentato il puzzo. Abbiamo aperto la porta, era una nebbia. Quello davanti non lo potevi vedere perché la via era coperta di nebbia, non vedevi niente, non puzzava di gas. Poi mio padre ha chiamato quello di sopra, che è sempre marocchino, l'ha chiesto cosa sta succedendo. Lui l'ha detto, sta per scoppiare la stazione del treno, perché ha visto il fuoco da lontano. Mia mamma invece ha visto il fuoco, anche lei, ha detto fuoco, si prende il documento e si scappa. Io, cioè, volevo prendere la sorellina e lei non ha voluto me, ha detto voglio la mamma. Mia mamma l'ha presa in braccio, io appena sono scappata io, loro sono usciti. Appena sono arrivata al giardino, che c'è vicino a casa, si è esploso tutto. Infatti, dopo due passi, loro erano lì per la via. Quando sono uscita io, non era nessuno, neanche una mosca. Dopo l'esploso, vedendo gente bruciata che usciva dalle case. Guarda il cantiere di via Ponchielli, Ibi. Al di là della rete, dove pendono fiori e messaggi, cerca il punto dove sorgeva la sua casa. Lei ora è andata a vivere in un altro quartiere col giovane marito, ma anche il giorno del matrimonio è passata di qui. Come a questa strada è andato il suo primo pensiero, quando ha saputo di aver ricevuto la cittadinanza italiana. La prima cosa che ho pensato a mio padre, perché lui ha sempre voluto fare la cittadinanza. Infatti quel mese che è successo il disastro, lui pensava di andare a Marocco per poter fare documentazioni. Anche se non c'è lui, l'ho presa io, come se fosse presa anche lui. Lei da quanto tempo quindi è qui a Viareggio? più o meno 8 anni. Ha ricordato il vostro matrimonio. In quel momento la comunità di Viareggio ha partecipato e vi siete sentiti in qualche modo il segno di una rinascita, di una ripartenza, di un ritorno alla vita per voi, e un po' Viareggio con voi lo ha visto per l'intera città. Lì era un momento indimenticabile. Infatti, prima cosa, mi sono sposata a persona che amo, ho portato un mazzo di fiori lì davanti a casa dove stavo. Ci passo quasi sempre, no? Ci sono tanti ricordi, no? Ho visto mia sorellina che nascere in quella casa, mentre crescendo la portavo al giardino che era vicino lì a via Ponchielli. La storia di Ibi per la città di Viareggio è un po' come l'istantanea di via Ponchielli, un simbolo del disastro, ma anche un cantiere che parla di ricostruzione e di vita che va avanti, come quella di Marco e Leonardo Piagentini, padre e figlio, che si sono riabbracciati dopo mesi di ospedale e dopo aver detto addio al resto della famiglia, la mamma e i due fratelli. O ancora come quella di Luigi Cordoni, volontario della Croce Verde, che a chiunque gli chieda del disastro mostra il suo cellulare con la foto del suo corpo avvolto nelle bende. A un certo punto si è sentito un rumore un po' strano, tipo una cosa che strusciava, che batteva. Siamo accorsi davanti alla sede, abbiamo visto tutto questo fumo che andava in aria. Fortunatamente per noi i macchinisti hanno scavalcato il muro e ci hanno dato l'allarme di scappare, che scoppiava tutto. E mentre eravamo dentro è successa la prima deflagrazione grossa. Sembrava l'apocalisse. Tutto il cielo bianco, rosso, eravamo terrorizzati. La sede era tutta avvolta dalle fiamme. Mentre io scendevo giù è arrivato il secondo colpo forte, mi ha preso nel viso e nelle mani e nell'avambracci, e sono rimasto circa un mese all'ospedale. Qui siamo molto vicini alla stazione e come lei stesso ha detto, l'allarme vi fu dato direttamente dai macchinisti. Cosa vi dissero, che cosa vi raccontarono? Che stava scoppiando tutto e non era colpa loro, scappate scoppia tutto per aria. E niente, loro erano più terrorizzati di noi, anche perché loro sapevano quello che trasportavano. Però i macchinisti sentirono il bisogno di dirvi: non è colpa nostra. Sì, loro sì, mi ricordo bene queste parole. Dissero proprio: non è colpa nostra, scappate. Erano terrorizzati. Però avevano portato con sé i registri del treno. Sì, quello lo ricordo, i registri tutti, perché noi siamo stati i primi che abbiamo dato l'allarme sia al 118 che ai pompieri. La vita a te è cambiata. Cioè, se ti dico come erano, io ero il terzo ferito. Quando ho visto arrivare tutti quegli altri feriti, mi sono messo lì, ragazzi, qui stiamo buoni, perché io non c'ho nulla a confronto a questi. E io ero bruciato, cioè, ti faccio vedere la foto com'ero, io non c'avevo niente. Ridare una casa ai tanti che sono in affitto e dare una risposta a chi invoca giustizia. E attraverso queste due strade che Viareggio vuole andare avanti. 18 milioni sono stati già stanziati da governo e regione per la ricostruzione degli edifici, a cui bisognerà aggiungere altri 7 quasi per la passerella che congiungeva le due sponde della ferrovia. Nel frattempo è addirittura d'arrivo la legge per l'elargizione di 10 milioni per i familiari delle vittime, mentre le ferrovie fanno sapere di aver già erogato 7 milioni di indennizzi per 4 deceduti ed anticipi di 700 mila euro per 7 feriti. Ma per quasi tutto l'anno i familiari delle vittime hanno manifestato e protestato, invocando soprattutto risposte dall'inchiesta aperta dai magistrati di Lucca. 18 fino ad ora gli indagati, tra la società tedesca che aveva fabbricato la cisterna, quella di Hannover che l'aveva controllata, ma anche tra Rete Ferroviaria Italiana che gestisce le infrastrutture di terra. Per i magistrati di Lucca non tutto sarebbe stato fatto per garantire al massimo la sicurezza. E quasi alla vigilia del primo anniversario del disastro hanno voluto far sapere che stanno continuando a lavorare in più direzioni per risalire alle responsabilità di quella strage. Se non arrivavano risposte, qui si correvano dei rischi, era la paura, confidataci dal sindaco Luca Lunardini. Sì, ma perché la testa comprende perfettamente i percorsi giudiziari degli inquirenti. È una indagine per omicidio colposo, quindi un'indagine complicatissima, e quindi il cuore chiede risposte e chiede giustizia. L'anno scorso, subito dopo il disastro, immediatamente i residenti della zona dissero: avevamo da tempo chiesto un muro. Questa è una vecchia richiesta che fu fatta alle ferrovie da anni e decenni. Certamente se ci fosse stata una barriera maggiore, il gas avrebbe avuto più difficoltà a diffondere e il danno sarebbe stato inferiore. È stato fatto nella zona del disastro un muro, tirato un muro, e ora arrivano anche pannelli fosnoassorbenti. La stazione di Viareggio è l'unica che ha un limite di velocità abbassato a 50 all'ora. Quindi sono soddisfatto per quello che a Viareggio abbiamo ottenuto dopo il disastro, ma non è che a Pisa o alla Spezia i cittadini sono ignifughi. L'amministratore delegato delle ferrovie dice che è una cosa inverosimile, impensabile. È vero, da un punto di vista economico lo capisco, perché sono cifre spaventose. E qui dobbiamo capire fin dove possiamo permettere che la ragioneria, che è comprensibile, possa avere la meglio sulla biologia, cioè sulla vita delle persone. C'è il mare grosso oggi a Viareggio e, come l'anno scorso, i turisti sono in spiaggia. Le immagini del Burlamacco, la maschera della tradizione, ricordano che questa è la città del carnevale, ma un po' più in là, in una casina di legno piena di foto, ricordi e messaggi per le 32 vittime del disastro del treno di un anno fa, tra i peluche spunta proprio un altro Burlamacco, stavolta alle lacrime agli occhi.